siamo pronti. Hanno sperato anche un po' di basso in spia. Ah, non sento un cazzo, ragazzi. Vai. Sento abbastanza bene. Oh ragazzi, iniziamo! È sempre un piacere tornare a XM, tornare a Bologna, anche se sono andato poco tempo fa, comunque grazie per essere qua. Sempre bello ritrovare i posti, le situazioni, gli amici, quindi grazie prima ancora di iniziare per essere qui, grazie. Evviva gli amici e le amiche! Proseguiamo. Dopo sbagliamo tutto. Già. Prossimo pezzo. Neve. Come ora sotto tutto lo giorno. Oh no, è diventato un albero, un albero. Oh no, è diventato un albero. Seguiamo il prossimo pezzo, accettare e resistere l'ingranaggio. Yeah! nessuno ti guarda più. Nessuno ti guarda più. Perché? Perché ti prendo qui? Perché? Perché ti prendo qui? Perché? Perché ti prendo qui? Resiste nell'ignoranza. Portato via dal circuito dei locali commerciali, dei dischi ristampati che vendono un sacco di copie e la gente non frequenta più i posti dove questi prodotti sono stati creati. Quindi grazie a voi per essere venuti, per supportare tutto questo, per supportare XM24 e tutti i posti che ancora mantengono un'anima contro il grigiore che ci circonda. Grazie. Ok, adesso facciamo un pezzo nuovo, cioè nuovo, si chiama Maschere ed è, niente, ci vuol far riflettere sulle maschere che quotidianamente ognuno di noi indossa in ogni situazione. Non pensavo che saresti più vicino a me. Sono passati ormai tanti anni da giorno tu. Yeah. All'epoca si dedicava alla campagna chiudere e morire, oggi lo dedichiamo alla campagna senza ritorno, comunque dedicato a tutti gli animali che vivono attorno a noi, con noi, dentro di noi. Siamo quasi in fondo, ci sono un paio e poi andiamo via. Volevo giusto aggiungere una cosa al discorso di prima della dedica. Stavamo venendo in qua stasera e parlavamo di un animale che adesso sta ritornando un po' nelle nostre zone. Ora, la canzone di prima, anche il concerto di stasera, dedichiamolo al lupo, che è un animale selvatico, allo stato brado, che fa paura e crea allarmismi, ma in realtà è il lupo. In realtà è il lupo. Quindi è il lupo che sta tornando. Nuvole. Thank you. Grazie ragazzi, grazie. Come ho detto all'inizio, per noi è sempre un piacere tornare qua e trovare amici nuovi e vecchi, per cui ancora grazie, grazie veramente. Grazie a tutti. Oh, è l'ultima, siamo in fondo, poi lasciamo spazio agli altri che già è tardi e abbiamo suonato già troppo. E poi siamo vecchi e dopo tutti questi cazzi qua. Ok, non è nostra, è una cover. Cantatela voi. Dai, muovi! Adesso c'è quella bella. Da da da da da da. Sempre di odio, ma il tempo non è scominato.